La cicogna nera. 21:10 in questo momento, avevo assicurato i nostri ascoltatori che sarei tornato in diretta alle 9 in punto, sarei stato puntuale, ma così non è. Speriamo che ce la farò per le prossime puntate, che questa storia non si prolunghi. Comunque 50 minuti sono sufficienti per conoscere un po' di musiche del mondo. Ascoltiamo, per chi ci sente ora per la prima volta, un po' di sonorità che arrivano da tutti gli angoli del mondo. Sonorità molto spesso ci avviciniamo, ci appoggiamo ai nuovi progetti, ai progetti che tentano di fare, di suonare non della mera tradizione, e dunque più suoni del nuovo millennio, suoni del mondo nel nuovo millennio, ma tradizione anche, perché no, la tradizione del secolo scorso o le tradizioni a noi conosciute che noi occidentali abbiamo ascoltato sempre poco. E allora questa sera iniziamo proprio dalla tradizione, ci concentreremo soprattutto sul Sud America per questa puntata della Cicogna Nera. E allora partiamo subito, prima canzone, andiamo a una delle città più alte del Sud America, l'antica capitale degli Incas, ossia Cuzco. La canzone è dei Blind Street Musician of Cuzco. Todo tener la culpa para parecer tanto. Cuando me miran tus ojitos, cuando alumbran tus ojitos, parece mi melo brandando la estrella cerro. Parece mi melo brandando la estrella cerro. Capolina, mejor bambino. Capolina, mejor bambino. Todo tiene la culpa para parecer tanto. Todo tiene la culpa para parecer tanto. Cuando me miran tus ojitos, parece mi melo brandando la estrella cerro. Parece mi melo brandando la estrella cerro. Guitarni con caimacho, nombre guitarre con caimacho, era menera bonita con que me engañaste, era menera bonita con que me engañaste. Ya me bebo y ya me bebo y no en la tierra de lejana. Ya me bebo y ya me bebo y no en la tierra de lejana. Combina te te conocí, ya niño raro mi soledad. Combina te te conocí, ya niño raro mi soledad. Thank you. Scapuli Naui Cusquenito, questo è il titolo di questa canzone, se la pronuncia è esatto, è esatta. L'album rispecchia gli strumenti suonati in, da questo gruppo che arriva appunto da Cuzco, ossia l'arpa andina, il mandolino, entrambi retaggi europei, comunque entrambi strumenti molto modificati dalla popolazione indigena del Sud America. Cuzco, che quanto pare molti dicono sia stata la prima città, la città abitata più antica di tutte le Americhe, e deve la sua fondazione, sempre secondo alcune fonti, a tal Manco Capac, insieme alla sorella e consorte, insieme Mama Oclo. Si legge che in entrambe il luogo dove sorge la città, quasi 3400 metri, fu rivelato dal dio sole Inti dopo una peregrinazione iniziata a sud della valle sacra degli Inca in cerca appunto del luogo esatto. Questo fu il luogo esatto, il luogo madre per l'impero degli Inca, impero che si parla ancora la lingua Quechua, e probabilmente, anzi sicuramente, la canzone che abbiamo ascoltato è in questa lingua, che è una delle più importanti per quanto riguarda le famiglie autoctone parlate appunto nell'America del Nord e nell'America Latina. Anzi, dovrebbe essere circa la quarta per importanza, se non mi ricordo male. E Quechua, che significa Quechua più che altro è un adattamento dello spagnolo, è un adattamento di un termine spagnolo, il termine spagnolo che hanno tradotto la parola Quichua con la doppia V, e che significa zona temperata, mentre per i nativi la Quechua, l'idioma Quechua, lo chiamavano Runa Simi, ossia l'accoppiamento di Runa, che significa uomo, e Simi, idioma, e quindi appunto il linguaggio umano. E andiamoci ad ascoltare un'altra canzone di questa area, rimaniamo per la prima parte, anzi probabilmente per la maggior parte di questa puntata, nell'area andina. Andiamo a scoprire un po' di suoni tradizionali che arrivano dalle Ande, dagli imperi Inca. Dunque c'è una forte tradizione, c'è un forte pesante arretrato culturale che ancora spinge qui la musica da queste parti. L'impero è quello appunto degli Inca, o come lo chiamano i nativi, del Tahuantinsuyo, forse questa è la pronuncia esatta, lo chiamano più che altro loro, il popolo Inca, dato questo nome alla monarchia incaica. La prossima canzone arriva dalla Bolivia. Thank you. raddoppiati in primo piano in questa canzone dal titolo Fiesta Coya, come vi abbiamo detto, che arriva dalla Bolivia, in un album che porta proprio il nome dell'impero Inca di cui vi accennavo prima, ossia Tahuantinsuyo, di cui tal Atahualpa, vissuto tra il 497, anzi il 1400, scusate, 97 e il 1533, è stato il tredicesimo e l'ultimo sovrano, l'ultimo prima che arrivassero gli spagnoli, insomma, e prendessero loro il posto della dominazione Inca, perché anche gli Inca erano dei dominatori, anche loro hanno fatto questo impero a cavallo delle Ande tra la Bolivia, l'Ecuador, il Perù, il nord dell'Argentina, ma c'erano sicuramente altre popolazioni, altre etnie autoctone lì da quelle parti. Di musica nativa però ante Inca e ante spagnola non se ne conosce praticamente nulla. Si sa che c'era una cultura e dunque anche una musicalità tribale sulla costa, sulle coste anzi del Perù, che avevano un collegamento molto forte con i riti pagani, però di questa cosa, come vi ho già detto, si è quasi perso tutto. Ci sono solo alcuni passaggi che ho trovato sul web, Storia della musica peruviana, un scritto in italiano, dove si citano insomma alcuni passaggi dei coloniali, dei colonizzatori spagnoli. Si dice: a quanto pare danze e libagioni erano le principali forme di baldoria riservata agli adulti. I diversi capi organizzavano regolarmente conviti con la presenza di cantori vestiti di piume, di danzatori e buffoni. L'ubriacatura era un rituale che faceva parte del divertimento. L'indigeno era tenuto ad essere smodato nel bere. Ecco, questo del bere forse è una tradizione che torna spesso in America Latina e insomma anche nelle feste andine, in questa zona peruana dove c'era nell'antica civiltà e forse non si trova più così tanto, una grande bevanda dal nome di Chicha, che poi vi faremo ascoltare nella sua versione, nel suo versante anzi musicale. Ora ancora un po' di canzoni andine, andiamo a sentire dallo stesso album un altro tradizionale, se così possiamo chiamarlo, che arriva dal nord dell'Argentina, si chiama El Casquimoto. We'll be right back. subito ancora, ascoltiamo un altro brano, entriamo, rientriamo in Perù, questa si chiama Jaiba Quiña, è un classico, uno huayno, dopo vi diremo che cos'è. Questo è un tipico huayno peruviano, musica che tra l'altro probabilmente molti di noi avranno già sentito attraverso gli Intillimani, per esempio, un gruppo molto famoso, o altre canzoni. Una canzone che ci ricorda, ci porta in questa direzione, è una famosissima di Simon & Garfunkel, El Condor Pasa. Gli huayno sono tipicamente andini, tipicamente peruani, ma la musica andina è molto molto di più, la regione è molto vasta, come vi ho detto prima, e non è che possiamo far coincidere, insomma, la musica andina o la musica folcloristica che stiamo ascoltando adesso con tutta la musica di questa parte del Sud America. Già il brano, ad esempio, che avete ascoltato prima, che arriva dal nord-est dell'Argentina, ci dà un po' di sfumatura, ci ricorda in qualche modo la colonizzazione europea, perché ci dà un po' un sentimento di valzer, di milonga, e questo è presente, è molto presente anche nella musica autoctona del Sud America. Sicuramente c'è stato il loro influsso, c'è stato anche l'influsso dei negri, che purtroppo in Argentina, così come in Perù, a un certo punto sono scomparsi. In Argentina non so perché c'era una tradizione nera, il tango negro è molto presente, poi a un certo punto si è volatilizzato. La stessa cosa è probabilmente è successa in Perù, e alcuni artisti stanno cercando di ritornare alle loro radici così africane, all'unione di queste tre forze, di queste tre culture che hanno portato ad esempio alla nascita della cumbia. Abbiamo sentito anche in apertura i fiati, che probabilmente sono la quena, questo piccolo flauto dritto di canna, e in Colombia c'era un flauto simile che si chiama Las Gaitas, i Las Cañas de Millo, che sono stati i primi a portare la melodia nella cumbia, in questa cultura, in questa musica fortemente sincretica tra queste tre culture che abbiamo già passato. Questa sera invece ci stiamo concentrando per questa prima parte della trasmissione sulla musica andina e abbiamo ascoltato un huayno, come vi abbiamo detto, a non so chi, quale sia l'artista, l'album è sempre quello, il titolo che dà al... è una compilation, insomma, di pezzi tradizionali che dà, che si chiama come il nome dell'antico impero Inca, ossia Tahuantinsuyo, per chi non avesse ascoltato prima. E un'altra canzone famosa che abbiamo ascoltato in passato è arrivata alle nostre orecchie soprattutto perché lei poi è diventata famosa in Nord America, e la cantante che ha avuto, o si dice che abbia raggiunto, la nota più alta nell'arco di tutta la storia, si chiama Ima Sumac, e ha cantato un huayno andino che si chiama Virgenes del Sol. Ora lo sto cercando perché, visto che abbiamo un po' di tempo, la prossima canzone che ci ascoltiamo è proprio questa, Ima Sumac. Ima Sumac o Ima Sumac, ma chi lo sa, quello che è sicuro è che, come vi ho anticipato, questo è un huayno, una danza e un ballo caratteristico della cultura peruana, della cultura inca, una cultura che si basa su una scala prettamente pentatonica, spesso in due quarti. E come vi dicevo prima, ho trovato una cosa interessante a proposito della commistione tra queste tre culture che ha fatto nascere della stupenda musica in Sud America, a proposito dei neri, che degli schiavi neri che si trovavano in Perù e dovevano reprimere la loro cultura. A questo proposito il poeta Cesar Calvo scrive questi versi: dalla Spagna ci arrivò Cristo, ma anche il padrone. Il padrone uguale a Cristo, il negro crocefisse. Questo è proprio un incipit e sono due versi, ma ci fanno ben capire come siano andate molte delle volte la storia da quelle parti in passato. E Huayno, possiamo andare avanti quando sono le 21:35, collegandoci con lo Huayno, con questa danza che, come abbiamo detto, è uno dei generi della musica peruana e andina, non solamente perché la zona lì è veramente grande, dalla costa alle montagne andine, poi si scende dalla parte di là verso la foresta amazzonica, e qui nacque verso la fine degli anni 60 un genere stupendo, un genere che vi abbiamo già passato e che tal Enrique Delgado nel 1968, giù di lì, è riuscito a codificare proprio mettendo dentro a questa pancianca gli huayno andini folcloristici a pentatonici, con i guarachas cubani, con il rock, con il surf e la psichedelia, soprattutto con la musica classica. Insomma, ha fatto un po' una commistione con gli strumenti elettrificati ed è uscita fuori una musica bellissima, una musica che si chiama Chicha e che in passato indicava proprio un liquore a base di mais fermentato. Questi sono i Los Mirlos, uno dei punti cardine, e questa probabilmente è proprio il manifesto della Chicha. Amazzonico è proprio, insomma, come vi dicevo prima, una sorta di manifesto, ci fa capire, ci fa sentire bene qual era il sound di questa cumbia amazzonica, anche come veniva chiamata all'inizio degli anni 70, e dunque una musica totalmente differente da quella della regione andina, che probabilmente, anzi sicuramente, è arrivata a noi, è arrivata anche alle mie orecchie, alle orecchie della cicogna, grazie a un personaggio che abita a New York, che si è innamorato di questo suono, di questi ritmi perduti, e ha fondato attraverso la sua ha fondato un'etichetta, una label, e attraverso questa label ha portato alla riscoperta questi suoni, creandoci proprio su un gruppo, uno dei gruppi in cui suona, ossia i Chicha Liberi, la Chicha che è questo liquore, come vi ho detto prima, a base di mais fermentato con la saliva. Questa è un'altra caratteristica, a quanto pare dava uno sballo proprio particolare questa Chicha, che si usava per le feste andine, che duravano più e più giorni. E allora andiamo anche ad ascoltare il patron, lui, Olivier Conan, ecco come si chiama, è già passato dalle parti della cicogna. Andiamo a sentire un altro brano di questo bellissimo album che è uscito un paio di anni fa e che porta lo stesso nome della canzone che ci siamo ascoltati prima, ossia Sonido Amazzonico, mentre la canzone di ora si chiama El Borrachito. Thank you. continuiamo con una base di Olivier Conan quando sono quasi le 21:46. Questo era uno dei suoi brani più belli dell'album dei Chicha Libre, Sonido Amazzonico. Andiamo avanti ancora, rientriamo nella Perù vera, e andiamo ad ascoltare un direttore, tal Ronaldo Campos, che ha formato un gruppo nel lontano 1969 e si è affidato proprio a quella componente nera di cui parlavamo prima, una seconda ondata di folklore afro-peruviano, se così lo possiamo chiamare, che oggi è molto vivo in patria e che è portato avanti da, oltre che da lui, da altri artisti, una delle più famose è sicuramente Susana Baca, che ha da poco recentemente pubblicato un album. Allora, due pezzi, se ce la facciamo andiamo ad ascoltare. Questa è l'apertura, il brano di apertura di Sangre de un Don, si chiama l'album, Herencia Afro-Peruana, pubblicato nel 2000, e il titolo dovrebbe significare il sangue di un gentiluomo, probabilmente l'erenzia e l'eredità afro-peruviana. Questo è il coco fritto dell'erenzia afro-peruana, e come in molte parti del Sud America le autorità nell'epoca coloniale misero fuori legge le percussioni e altri strumenti di origine africana, perché dovevano proprio annientare la cultura degli schiavi che deportavano in Sud America, e così gli stessi dovevano cercare un po' altre vie per esprimere la loro cultura, la loro vocalità, la loro percussione, molto importante, no? in tutta la musica africana. E così, richiamandosi un po' alla rumba cubana, iniziarono a battere sui tavolini, sulle sedie, insomma iniziarono a percuotere qualsiasi cosa si poteva, questi schiavi africani, e così si sono stilizzati in uno strumento che avete sentito molto molto bene in questa canzone, uno strumento che personalmente ho conosciuto e molti di voi sicuramente conosceranno in un'altra eredità, quella della rumba catalana, ad esempio gli Ojos del Brujo ne fanno un ampio uso, uno strumento, un box che si chiama il cajón. Eso es Cuba. Llegando como cargas a montón, así fueron quedando muchos negros con sazón. De África llegaron como cargas a montón, así fueron quedando muchos negros con sazón. Así fueron paseando con quijada y con jabón hacia el mundo entero, pero un negro lo llevó. Así fueron paseando con quijada y con jabón hacia el mundo entero, pero un Sabor, il titolo di questa canzone, l'album è sempre lo stesso, Sangre de un Don, erenza afro-peruana, e andiamo ad ascoltare un'altra, forse era Susana Baca questa voce, non ne sono sicuro, andiamo ad ascoltare una voce molto famosa, al pari di Susana Baca, probabilmente anche di più, Maria Angelica Hailong, al secolo si chiama Maria Angelica, lei è più conosciuta con il nomignolo, il nome di Eva che ha preso da sua nonna, e un'altra canzone che appunto mette in evidenza sia lo stile musicale nero sia proprio il pensiero rivolto. Infatti la prossima canzone si chiama Negro Libre ed è appunto Eva Ailon, che si setta proprio su questo genere di influenza africana denominata criolla. Della musica criolla, questo canta Eva Ailon nel genere soprattutto dell'andò e del festeggio di stanza a Lima. La canzone invece con cui ci stiamo lasciando è la stessa melodia, però è remissata da un gruppo di suonatori DJ di stanza a Londra questa volta, e che hanno provato a rifare questa canzone, questa Negro Libre. Ne è uscita una versione molto bella. L'album è del 2009, si intitola Coba Coba. La cicogna nera intanto è partita e finisce qui, e tra poco agli microfoni di Onda Rossa sarà di scena Nelle Notti di Pan. Noi non ci vediamo giovedì prossimo, cercheremo di mettere una playlist per i nostri ascoltatori, invece l'appuntamento allora è alle 21 tra due giovedì. Negro sarà presidente, negro ministro sarà, negro canta la misa, negro sarà. Ya no vuelvas a la pampa.